l'ho capito prima. La vita è un gioco in cui non riderai, no. Vince chi fa prima. Sacrificare ciò che sei per chi diventerai, ah. È un gioco che fa ridere solo quando non tocca a noi. No, sai che paradossalmente rido, perché il paradosso è non pensare al poi. Il dolore quanto dura è temporaneo. Un giorno, un anno, un'ora, boh. Tanto poi ci scordiamo e ritorniamo come sempre soli. Come sempre, come fuori dalla stanza al mondo. Dentro quella stanza soli, in testa al finimondo. Con le serrande basse è diventato giorno. E tu ad andare a letto sei l'ultimo stronzo. C'è stata una guerra che ha cambiato me, ed è quella che non racconterò, no. Dirsi perché quelle cose che hai te, quelle poche di te, non le hai protette, no, no. Fanculo chi ti dice non ce la farai. Fanculo questa vita, anche se non importa in fondo quanto forte sei. Lei colpirà prima. Lo so, lo so, lo so. Lo so, lo so, lo so. Lo so, lo so, lo so. Lo so, lo so, lo so. Capito prima, prima, da schiavi e serve non nascono re, mai. Crescerà l'invidia, yeah. Tutti credono di meritarlo più di te, oh. Ho preso un'auto nuova, shit. Per andare negli stessi bar, una casa nuova in una nuova zona, shit. Un po' più lontano dalla verità, e mi hanno detto che se un uomo vuol creare, deve buttarsi da un palazzo non e non semplicemente scendere le scale. E sotto già si chiedono se salterò. E siamo bloccati dai sentimenti come due pesi a caviglia, schiacciati uno contro l'altro, scorpioni in una bottiglia. L'incendio che si consuma e divora in pochi minuti. Noi che scoppiamo e cadiamo come alberi abbattuti. Lo so, lo so, lo so. Lo so, lo so, lo so. Lo so, lo so, lo so. Lo so, lo so, lo so. Ferro il polso e dice andiamo dai. E a volte non c'è neanche il tempo. Non è soltanto una canzone, ma lezioni da imparare svelto. Tu fai del tuo meglio non per credermi, ma solo per credere a questo. Intensità tu agi sopra carni deboli. Noi cresciamo in fretta ma moriamo presto. Lo so, lo so, lo so. Io voglio più di questo qua. Non mi ha insegnato questo ma non siamo uguali a questi. Le vite sui testi è tutto quello che lascio in eredità. La vita è solo questa qua e mi sembra una vita fa. E bruci tutto quanto, incendio, a chiedersi per chi si è fatto questo inferno.